Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Mighty FM dopo una breve pausa. Una puntata veramente speciale dal punto di vista personale e musicale, perché siamo qui per parlare degli Ofelia Dorme, del loro ultimo album Blood Root, che è uscito il 22 marzo per la Prisoner Records e che io personalmente avevo dal 3 febbraio, quando me ne è stato fatto dono, mai grata abbastanza, ad un gruppo che è come una famiglia, che sono insomma dei nostri grandi amici, i miei come di tanti altri bolognesi che li sostengono, li accompagnano, li hanno visti nascere e crescere. È un gruppo a cui Mighty FM non ha mai dedicato una puntata, nonostante, come ho scritto nella presentazione, siano una presenza un po' costante, insomma, in un modo o nell'altro sono stati citati, presenti varie volte in altri episodi. Anche per personale miopia non avevo dedicato una puntata a loro quando è uscito il primo vero album, All Harm and Zero, ma sono contenta di averlo fatto adesso, perché non ripeto mai due volte gli stessi artisti, anche se fanno chiaramente nuovi dischi. Sono felicissima di farlo con questo Blood Root, perché almeno c'è anche più materiale precedente da far ascoltare, e poi perché è un bellissimo disco. E noi, come al solito, iniziamo con il pezzo che apre l'album, ovvero Last Day, First Day. Resting upon my bed and heart, base was through and approaching the last day. Then a starry coolness will call me word of furious light is brightening inside. I can't stand still. Self-awake that lives in nature's size and works away. E così si chiude First Day, Last Day, brano di apertura di Blood Root, degli Ofelia Dorme, di cui stiamo parlando oggi a Mighty FM, una puntata speciale. Più tardi parleremo insomma della nascita, della formazione degli Ofelia Dorme e delle loro produzioni. La prima produzione in realtà su CD è è stato un EP nel 2009, Sometimes It's Better To Wait, di cui ora ci ascoltiamo questa To Wait dall'afflato molto radioheadiano. To Wait, Ofelia Dorme 2009, il primo EP autoprodotto, come dicevo, dalla musica un po' alla radiohead e la voce un po' alla PJ, perlomeno nel coretto, insomma, diciamo che sono vari riferimenti relativi alla voce della bellissima voce della bellissima Francesca Bono, e una PJ Harvey, un altro Cat Power e anche altre. Come dicevo, Radiohead, e quindi non potevo non mettere un pezzo di Radiohead, che è un gruppo molto molto amato da Ofelia Dorme, forse più in Rainbows che questo, che invece è il mio preferito, forse Hail to the Thief, Scatterbrain, stessa malinconia e stessa tenerezza che mi scatenano molti dei pezzi da Ofelia Dorme, Scatterbrain, sperando di fare loro cosa gradita, come sempre. Yeah. Scatterbrain Radiohead sono vittima della mia stessa selezione, perché a parte il coinvolgimento emotivo per questa puntata è talmente grande e anche le aspettative forse degli interessati sono così alte che mi mettono un po', insomma, un po' alle strette, mi sento un po', e poi sono veramente molto molto emozionata per parlare di Io Feria Dorme. Come dicevo, si formano nel 2007, all'inizio insomma per il sodalizio tra Francesca Bono, di origine fiorentina, Gianluca Modica, Gimod, di origine girgentina, e quello che ci stiamo ascoltando in sottofondo, che accompagnerà questo excursus biografico, è una delle cover fatte da Io Feria Dorme negli anni, esattamente nel 2010, ovvero la rendition del pezzo di Morricone per la colonna sonora dell'Uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento, per Fight Night, una compilation della rivista 400 Calci, rivista di cinema d'azione, che appunto fece una compilation di cover fatte da gruppi italiani su pezzi tratti da film horror o d'azione. Come dicevo, Francesca Bono, Gianluca Modica, qui si aggiungono Tato Izia, anche lui siciliano, e l'unico bolognese dal nome meno bolognese, anzi forse anche proprio meno italiano, ovvero Michele Postpichl, che noi chiamiamo affettuosamente solamente Post, perché sennò è troppo difficile. Si fanno le ossa, si fanno conoscere attraverso un'attività live che rimane proprio la loro costante. È vero che per tutti funziona così, tutti si fanno le ossa e imparano di più a suonare, ad essere più sicuri di sé attraverso l'attività live. Io Feria Dorme de più, infatti io penso di averli visti 21 volte almeno, ho scorso l'elenco sulla sezione live del loro sito feriadorme.it, e penso di possedere il secondo più grande archivio video live dei loro concerti, solo seconda chiaramente a Serena Petrella, ufficiale videomaker, filmmaker e visual responsabile di Feria Dorme, un gruppo che per molti punti di vista è quasi autosufficiente, autarchico. Tato, che si occupa del web, Gmod della grafica, Serena dei visual, e poi amici come Ivan Vania, che ha curato tutta l'immagine del sito, un bellissimo sito, fatto tecnicamente molto bene, un menu molto fatto bene, una navigabilità molto facile e piacevole, molto completo, molto raffinato, proprio anche grazie soprattutto ai disegni di Ivan Spanu in arte Vania. E andiamo avanti, appunto nel 2009 esce il primo EP autoprodotto, Sometimes It's Better to Wait, da cui insomma il pezzo di punta è 6:17 PM, che è la prima forma di mautismo applicato a Io Feria Dorme. Io dico sempre che l'inizio mi ricorda Woman in Love di Barbara Streisand, questo è piuttosto il problema di avere una certa età e quindi di ricordarsi molto bene dei pezzi del 1980. I titoli comunque, Sometimes It's Better to Wait, un titolo molto azzeccato, come tutti gli altri titoli direi delle loro pubblicazioni. 6:17 PM comincia ad essere presente in molte compilation, e comincia anche l'attività live all'estero, Londra, Manchester, Bruxelles, partecipazione appunto in molte compilation di etichette non solo italiane ma anche l'americana Series 2 Records per esempio. E come dicevo, un'altra apparizione su una compilation è questa di Fight Night, con questa cover dell'Uccello dalle piume di cristallo. Ma noi stiamo parlando dell'ultimo lavoro, Bloodroot, uscito il 22 marzo scorso, degli Io Feria Dorme, che adesso sono in procinto di arrivare, credo, a Roma per la loro data di stasera al Circolo degli Artisti, e questo è il pezzo omonimo del che dà nome al disco, ovvero Bloodroot. Thank you. questo era Bloodroot, title track dell'album di cui stiamo parlando oggi, Ofelia Dorme, che in queste scariche elettriche, queste scartavetrate di chitarre mi hanno fatto pensare ai National, che anche questo è un gruppo molto amato da Ofelia Dorme, e quindi ci ascoltiamo un pezzo, ovvero Demons, il primo singolo uscito l'8 aprile in attesa del nuovo album Trouble Will Find Me in uscita 20 maggio. Devo dire, questo pezzo non mi ha fatto una grande impressione, però insomma è la prima cosa nuova che hanno fatto dopo un po', e quindi i National. I've been awake for days, I can't fight it anymore. I'm going through an awkward phase. I'm secretly in love with everyone that I grew up with. Do my crying underwater, I can't get down any farther. All my drowning friends can see, now there is no running from it. It's become the crux of me, I wish that I could rise above it. But I stay down with my demons. I stay down with my demons. Bats and buzzards in the sky, alligators in the sewers. I don't even wonder why. Hide among the younger givers. Huddle with them all night long. The worried talk to God goes on. I sincerely try to love it. Wish that I could rise above it. But I stay down with my demons. I stay down with my demons. I stay down with my demons. I stay down with my demons. Can I stay here? I can sleep on the floor. Paint the blood and hang the bones on the door. Do not think I'm going places anymore. Wanna see the sun come up above New York. Oh, every day starts so great and then the sunlight dims. Less I look, the more I see the pythons in the limbs. Do not know what's wrong with me. Me ne sto calmo, me ne sto quieto con i miei demoni, dice Matt Meringer, The National, un pezzo molto National che non potrebbe essere di nessun altro e che già a secondo ascolto migliora. Noi stiamo parlando di Ofelia Dorme, grandi fan The National. Un attimo, Christmas hypocrisy. Screaming under the tablecloth, see, been a good girl, such a good daughter. She's got a present for him, something nobody would guess, neither him. Questa bellissima canzone è No More Food For Me, un pezzo sul Natale, come molti di noi l'hanno spesso vissuto, una delle occasioni in cui con più probabilità possono accadere o accadono, sono accadute le cose più terrificanti, e questo pezzo era un inedito di Ofelia Dorme, contenuto solo nella compilation della Garrincha Dischi, appunto per il Natale 2010, Il Natale Non È Reale. It's been a such a good mother to be. You won't be back till Tuesday. Dancing with choices, it won't be back. No more food for me. No more food for me. No more food for me. Oh, mother, I can feel the soul falling over my head. Lo so, è un colpo basso. And as I climb into an empty bed, oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Oh, mother, I can feel the soil falling over my head. See, the sea wants to take me, the knife wants to slit me. Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Loud, loutish lover, treat her kindly, though she needs you more than she loves you. And I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Over, over, over, over, over, over. I know it's over, and it never really began. But in my heart, it was so real. And you even spoke to me and said, I know it's over, The Smiths, The Queen is Dead. 1986, ricorderò sempre che l'ho acquistato il giovedì 16 luglio 1986, autismo. Ma autismo e rassegnazione, perché gli Smiths, perché chi conosce gli Ofelia Dorme, chi conosce G-Mod, sa che hanno un loro pantheon personale in cui gli Smiths e Morrissey imperano, trionfano insieme chiaramente a Rimbaud, da cui appunto la poesia Ofelia prende, appunto, ha dato nome al gruppo stesso, il cui quadretto di Rimbaud da giovane viene sempre posto sul palco prima dei live. Proprio l'ultima cosa che G-Mod fa prima di iniziare a suonare è mettere davanti questo quadretto di Rimbaud, ma appunto dicevo Morrissey, anche un tema molto frequente anche nelle loro altre attività, perché appunto nel gruppo autosufficiente c'è anche il merchandising che se lo producono da soli, come The Park, G-Mod e Serena, per noi e per tutti delle bellissime magliette, qui adesso c'è anche una nuova serie, sempre con i disegni di Vania, che saranno disponibili venerdì, perché noi stiamo anche parlando oggi degli Ofelia Dorme, perché venerdì ci sarà il release party ufficiale, ovvero il concerto ufficiale di lancio dell'album qui al TPO di Via Casarini 17/5, che sarà preceduto e seguito da dei DJ set a cura di me, Mighty Mau e Giovanni Casual Green, appunto, che siamo insomma dei parenti abbastanza stretti degli Ofelia Dorme, e che poi vedranno sul palco anche gli ospiti che hanno partecipato a Bloodroot, ovvero Alberto Poloni, Vittoria Burattini, Angela Baraldi, Marcello Petruzzi, 33 ore immancabile. E quando ho chiesto, perché appunto non voglio fare le cose male, voglio rispettare insomma i gusti e le volontà dei miei amici, perché magari altri su cui faccio le trasmissioni non posso interpellarli direttamente, loro sì, e invece ho chiesto a G-Mod: senti, ma qual è il tuo pezzo preferito degli Smiths? E visto che è difficile scegliere, te la faccio più facile, restringo il campo e ti chiedo: qual è il tuo pezzo preferito da The Queen is Dead? E io avevo già in testa I Know It's Over, e lui mi scrive I Know It's Over perché la suonavo da Pischelletto ad Agrigento. Mother, I E insomma, gli Smiths non potevano assolutamente mancare, perché come per G-Mod, come per me, che l'ho dichiarato mille volte, come per Alberto, sono sicura di poterlo dire, gli Smiths sono state l'influenza musicale fondamentale nella nostra vita e ancora lo rimangono. Come anche sento appunto un rapporto molto profondo umanamente, empaticamente e musicalmente con G-Mod, che considero proprio come un fratello. Andiamo avanti per parlare di Bloodroot. È uno dei pezzi che spiccano e che lasciano assolutamente senza fiato e senza parole è questa produzione, creazione della sola Francesca, voce e chitarre rarefatte, Magic Ring. Find me through the night when everything's embossed. Bring me to the light of heaven and earth today. You may dare to speak, you're not as tongue-tied as me. Bellissima Magic Ring, che quando l'hanno fatta qui in studio per Casual Friday qui a Radio Kairos l'hanno dedicata a Serena, e quindi magari gliela dedico anche io a posteriori. E come ho detto a loro, la voce così un po' rarefatta, un po' così acuta, mi ha fatto pensare ad un gruppo che amo molto. Ci abbiamo anche fatto una split puntata insieme a Sharon Van Etten, che ritornerà, perché comunque insomma noi siamo tutti amici, andiamo ai stessi concerti, abbiamo più o meno gli stessi gusti musicali, e mi ricordo che io le World Paint le avevo promosse molto, proposte spesso insomma a Francesca, e Magic Ring mi ha fatto venire in mente Baby, tratta da The Fool del 2010. Tried to fake it, never drew a line. Don't you call anybody else baby, 'cause I'm your baby still. Took a long time to make it. Thank you. Baby delle Los Angeline Warpaint, tratto da The Fool del 2010. Io sto chiedendo continui feedback su Facebook a Olivia, mia moglie, nonché moglie di Francesca Bono, perché Francesca, la cantante di Ofelia Dorme, si rivolge a noi chiamandoci le sue mogli, ed è stato anche per le sue mogli che ha cominciato a coverare Sharon Van Etten, dedicandocela spesso. E Crime, ma ascolteremo Sharon Van Etten chiaramente, ma non A Crime. Adesso stiamo ascoltando le Warpaint in questo pezzo Baby, che mi ha fatto appunto ricordare Magic Ring o viceversa, perché è vero che si dice, si legge nelle recensioni che soprattutto per la voce, come dicevo prima, PJ Harvey, Cat Power, ultimamente altri nomi ho letto in giro, Nina Anastasia, ma per esempio per un nome recente come Daughter, che ascolteremo dopo e che so essere tra gli ultimi ascolti molto graditi da parte di Francesca, si potrebbe dire: ah, Daughter assomiglia a Francesca Bono, perché perlomeno in ordine cronologico è arrivata dopo, e perché poi di chi è l'originalità di una voce e di un modo di cantare. Come spesso succede, parlando degli Ofelia Dorme, la loro carriera, i dischi veri e propri escono quando creativamente si è già un passo avanti. Infatti nel 2009, quando è uscito il primo EP, Sometimes It's Better To Wait, gli Ofelia iniziano già ad eseguire live pezzi come The King Is Dead o Ian, che faranno parte del primo vero e proprio album autoprodotto uscito all'inizio del 2011, All Harm Ends Here, un titolo bellissimo, molto simbolico, che mi tocca anche me personalmente, anche per, insomma, in quel periodo, per fatti di vita comuni, e uno dei pezzi che ho scelto di farvi ascoltare è Grow. True. and on come vorremmo che andassero avanti i pezzi. Di Ofelia Dorme come questa, Grow, tratta appunto da All Harm Ends Here, un titolo che dicono tutti che vabbè, è difficile da pronunciare, uno si dimentica le S, si dimentica le H, le mette nei posti sbagliati. È un album uscito il 21 febbraio del 2011, ma già pronto da tempo, autoprodotto, pubblicato da Abbas Supreme con la distribuzione di Audioglobe. Un album molto potente e che ha ricevuto delle recensioni molto positive, potente sia nei momenti di grande forza ed energia che in quelli più intimisti. Secondo me era un album che, appunto, nei pezzi più potenti aveva proprio il desiderio di dimostrare le capacità, le potenzialità del gruppo, e riuscendoci anche molto bene. I miei pezzi preferiti, a parte Grow che abbiamo ascoltato e che ascoltiamo ancora in sottofondo, a parte The King Is Dead e Ian, che sono di una emotività, per me The King Is Dead è bellissimo, ogni volta che la sento fa sempre lo stesso effetto, soprattutto dal vivo. La mia preferita però è Like My Drums, che appunto abbiamo già ascoltato in passato nella puntata su Radiohead, una canzone direi pop rock perfetta. Un album che è molto bello e che io ho cercato anche di diffondere il più possibile, passandolo proprio come dono anche di amore, insomma, alle persone a cui tenevo di più. Far conoscere meglio Ofelia Dorme alle persone a cui voglio bene, che mi piacciono, mi sembra un bel regalo per me, per loro, per il gruppo, insomma. Perché nei loro confronti io appunto mi pongo come la fan più emozionata, come se fossero appunto dei miti irraggiungibili, invece sono i miei quasi migliori amici. Ed ecco che entra in studio Petra Dotti, che ascolteremo più tardi perché stiamo facendo la puntata su Ofelia Dorme e ascolteremo anche Io delle Di Stone, gruppo di cui Petra Dotti è compositrice, strumentista, polistrumentista. Vi mando un bacio col bellissimo Noè Bosco in braccio, che guarda un po' perplesso e dice: ma che sta dicendo questa? Vabbè, comunque dopo ascolteremo anche Petra, Alberto, Irene, Francesco. Manda i baci. Stiamo parlando degli Ofelia Dorme, che in questo momento stanno andando a suonare, ad esibirsi al Circolo degli Artisti, come dicevo prima, per una serata Mercurio e Scuderie Marte Live, che presentano Ofelia Dorme, Jesus Cures the Blind Man e Tre che vedono il Re, che si esibiranno stasera appunto a Roma, e invece venerdì per il super concerto ufficiale. È chiaro, il disco è già stato già ascoltato, recensito, presentato, anche XL di Repubblica, messo in download tre pezzi, come anche delle cover, una cover in particolare di cui parleremo più tardi. Ma ecco, il concerto ufficiale, diciamo, di lancio si svolgerà dopodomani qui a Bologna, perché insomma il TPO è un po' la culla, Bologna e la loro città hanno deciso di fare la festa appunto per questa uscita di questo album qui al TPO di Via Caserini 17/5 per un concerto It's Up to You, ovvero paga quanto vuoi pagare, fai un'offerta libera per vedere questo concerto. Vi saranno tutti gli ospiti presenti nel disco e anche dei DJ set prima e dopo. Invece stiamo finendo di riascoltare Grow, un pezzo che io ho scelto per questa apertura finale, per queste due anime che sono un po' le anime degli Ofelia Dorme, quella dark, inquietante, un po' ossessionato, un po' scuro, un po' sporca, e invece quella più tenera, dolce, delicata, malinconica e calda. Ogni volta che dico qualcosa dico: ma quando loro ascolteranno la puntata cosa penseranno di me? E questo è il pezzo che abbiamo scelto di far ascoltare da All Harm Ends Here, una tappa fondamentale che dimostra ancora una volta un'estrema cura del lato tecnico, la registrazione, il missaggio, l'impeccabile esecuzione come musicisti. Infatti sono quattro perfezionisti, giustamente, e hanno appunto una generale costante attenzione veramente al dettaglio. E come definire comunque la loro musica? Ne parleremo più tardi, perché adesso siamo arrivati al momento del mashup. In realtà sono solo tre pezzi, perché lo stiamo ascoltando quasi tutto, perché è un album che dura appena, ma è proprio la durata giusta, 30 minuti, per l'intensità che sanno trasmettere in questi 30 minuti. E questo è il Bloodroot Mix dei tre pezzi che invece non ascoltiamo interamente. ovvero Brussels, Predictable e Otherwise. Questo era il mashup Bloodroot Mix, ovvero solo composto da tre pezzi, e Woodkid, ovvero Joan Lemoine, ovvero Roby, dalla chat mi dice: ah, abbiamo gusti diversi in fatto di Ofelia, tu hai scelto proprio, hai messo nel mashup i pezzi che mi piacciono di più. Vabbè, è stata una scelta non solo di gradimento, ma un po' un punto perché i pezzi che ascoltiamo interamente sono un po' più radiofonici, sono un po' più brevi, sono un po' più vivaci. E comunque sono tutti belli, e gli estratti comunque che abbiamo scelto sono abbastanza lunghi, essendo appunto solo di tre pezzi. Che stiamo parlando di Bloodroot. Ma cos'è Bloodroot? Bloodroot è stato per prima cosa un tatuaggio che infatti campeggia nell'avambraccio di Francesca e nella copertina. Poi è diventata una canzone, e poi, visto che sarà una canzone molto bella e su cui loro parole hanno lavorato molto, hanno deciso che, insomma, potesse essere, che sul suggerimento di Gmod, potesse essere un ottimo titolo, e lo è, insomma, per il suo significato così di sangue e radice. La sanguinaria in realtà è una pianta che è presente solo nel Nord America, e anzi nella costa atlantica, dalla Nuova Scozia alla Florida fino anche alla regione dei Grandi Laghi. È una pianta bella soprattutto per i suoi bei fiori bianchi, che è facile vedere se si va appunto in Canada a fare delle passeggiate, e che ha anche delle proprietà sia benefiche, ovvero venivano usate anche gli estratti da questa pianta, veniva usata dagli indiani d'America per creare degli emetici, quindi per indurre appunto il vomito, in caso insomma di bisogno di disintossicazione, e la sanguinaria è usata anche in medicina omeopatica per vampate di menopausa. Quindi tra un po' io ne farò sicuramente ricorso, anche per mal di testa e mal di spalla, anche questo insomma con le nostre posture sbagliate sempre al computer, e per le sue proprietà antisettiche ed ematiche. La sanguinaria canadiensis, ovvero Bloodroot. Come dicevo, il mashup conteneva Brussels, Predictable e Otherwise. Brussels, in cui ci compaiono appunto gli ospiti Angela Baraldi, Alberto Poloni e anche Vittoria Burattini, che vedremo sul palco del TPO. Invece questo pezzo, poi seguita, scusate, da Predictable e poi Otherwise, che è anche il pezzo che chiude l'album e chiude veramente in bellezza. Un album che solo preparando questa puntata mi sono resa conto che dura appena mezz'ora, non me ne ero mai accorta, perché come dicono anche tutte le recensioni che ho letto, e lo condivido anch'io, sono 30 minuti veramente così incisivi che less is more. In questo caso non è uno slogan logoro, perché io Fera Dorme sono come i minimalisti nella musica rock, indie rock, folk, con tinteggiato d'elettronica, insomma come lo vogliamo definire. Ed è in questo pezzo che io, essendo mautistica, ma i miei amici Fera Dorme non me ne vogliono, perché io non dico che si tratta di ispirazione, copiatura, eccetera. Se ami la musica talmente tanto da essere tu stesso un musicista, è inevitabile che questo traspaia, passi un po' per osmosi, che tu lo voglia o no, che tu te ne renda conto o no. Come infatti ho fatto notare che l'inizio di Last Day, First Day mi ricordava appunto un fraseggio melodico degli Other Lives, cosa a cui appunto Francesca non aveva mai notato, come questo chorus finale di Otherwise mi ricorda molto Don't Do It di Sharon Van Etten, che è molto molto molto amata da Francesca, ma anche da Tato, che se la vorrebbe sposare. Ed ecco che infatti noi ci andiamo ad ascoltare dal secondo o terzo insomma album di Sharon Van Etten, ci andiamo ad ascoltare il pezzo d'apertura, ovvero Warsaw, tratto da Tramp. questa è la bellissima Warsaw di Sharon Manette, entrata da Trump del 2012, che Francesca e Tato amano tantissimo e anche noi, e non andiamo avanti con uno dei primi pezzi, penso, di Bloodroot che hanno scritto e che hanno cominciato ad eseguire dal vivo. Io me la ricordo di averla sentita al concerto del Teatrino degli Illusi nell'ottobre del 2011, sicuramente è questa Pumpkin Girl, che in versione del disco mi piace molto di più che nelle prime versioni live che abbiamo ascoltato. Continuando a parlare di muse ispiratrici, pantheon musicale e personale, Chan Marshall, ovvero Cat Power, che ci sta veramente facendo soffrire. Dopo il tripudio e il giubilo per l'uscita del disco, sul quale spesso io, Olivia e Francesca ci siamo consultate e confrontate, l'annuncio delle due date che doveva fare in Italia, tra cui una a Bologna, poi i suoi problemi economici e soprattutto di salute, per cui ha cancellato il tour europeo, che adesso è stato riannunciato e l'Italia non c'è più. E anche in questo caso Manhattan, che stiamo ascoltando da Sun, è il pezzo preferito di Francesca. Don't look at the moon tonight. e la gatta potere ce la teniamo un po' in sottofondo per fare un excursus delle recensioni di cui ha usufruito finora Bloodroot, che potete trovare appunto nel bellissimo, esaurientissimo e godibilissimo sito della band, ofeliadorme.it. Per esempio, una delle praticamente ultime recensioni di Federico Guglielmi per il Mucchio, visto che lo ha abbandonato, che dice: un gran bel progresso quello compiuto dagli Ofelia Dorme per il nuovo lavoro prodotto dal polivalente Bruno Germano, che non abbiamo nominato, ma appunto è il produttore del disco presso il Vacuum Studios. Bruno Germano, fondatore e musicista dei Settlefish, che poi ha lavorato anche con le luci della centrale elettrica, con il Toys Orchestra, il Teatro degli Orrori, Massimo Volume, Death of Anna Karina, Drink to Me, insomma tutta la scena alternativa, Black EE, Classic Education, ma also Mixtape, Disco Drive, insomma tutta la scena alternativa della musica nostrana. Appunto, come dice Federico Guglielmi, più che nello stile, allineato alla strada finora battuta, nella sua elaborazione e definizione sotto il profilo del songwriting e della cura dei dettagli. Il quartetto bolognese impressiona con trame ritmate e avvolgenti che non stancano mai, anzi brillano per ispirato eclettismo. Poi ancora un accento sulla la brevità del disco, solo mezz'ora, appunto pezzi anche di meno di 2 minuti e mezzo, sì, colpisce perfettamente il bersaglio, e anche 2 minuti e mezzo che comunque lasciano veramente un segno, una eco durevole. Un disco breve, solo mezz'ora, scrive Alfredo Sgarlato, ma intenso, molto riuscito, che mostra come nella scena musicale italiana ci siano proposte molto più interessanti rispetto a tante strombazzate band straniere. Infatti è questo un po' il problema dei gruppi italiani, che hanno un impianto proprio internazionale, anzi che potrebbero forse essere più apprezzati all'estero che in Italia, perché infatti le pochissime recensioni meno positive o addirittura negative sono da parte di media italiani, che forse hanno sempre questo provincialismo denigrare un po' sempre le cose italiane e incensare invece a prescindere le produzioni straniere, come dice anche in una recensione che adesso non trovo, però c'è una recensione che dice: ecco, se non mi avessero detto che si trattava di un gruppo italiano, io avrei dato per scontato che era un gruppo straniero, gli avrei già dato credito. Oppure un'altra recensione dice: fossero nati a Bristol o che so a Manchester, gli Ofelia avrebbero invaso l'Europa almeno da un paio d'anni. E perché noi vogliamo assolutamente che abbiano un riconoscimento in Italia e all'estero, ed è per questo che comunque gli auguriamo in bocca al lupo per la loro partecipazione al festival a Liverpool, qui adesso non ricordo il nome ma lo cerco. E è finita la gatta potere, noi andiamo avanti con uno dei pezzi più belli per me degli Ofelia Dorme, una pubblicazione molto molto speciale, un 7 pollici picture disc istoriato da Ivan Vania e coprodotto da Francesca, da Giovanni Roncaia, Casual Green, Green Everywhere. Thank you. Cheer Me Up, un bellissimo pezzo che era un peccato appunto lasciare nel cassetto, lasciare solo per le esibizioni live, pubblicato in un 7 pollici nel settembre del 2011. E pezzo anche che fa da sottofondo allo spot per Radio Kairos de Io Fai la Dorme, con la voce di Francesca. Francesca che presta la voce anche per altri progetti, perché cos'è un gruppo indie se non ha dei side project, degli spin-off? Infatti Francesca Bono canta anche con i Leather Dive, ovvero Trifo, il creatore delle basi elettroniche così trip hop e così ossessive e dark ossessionanti, a cui nel tempo si è aggiunto anche G-Mod, bassista di Fai la Dorme, come appunto bassista sempre per il Leather Dive. Il pezzo che noi stiamo ascoltando è l'ultimo singolo uscito alla fine di febbraio di quest'anno e si chiama Steps. Ultima produzione del Leather Dive, ovvero Trifo, Francesca e G-Mod, che si collega naturalmente a uno degli ultimi colpi grossi messi a segno da Io Fai la Dorme, ovvero il remix da parte di How We Be di Paranoid Park, che è stato insomma pompato a sufficienza qui a Radio Kairos, io stessa il giorno in cui è uscito, il 14 novembre, pubblicato in esclusiva su Rolling Stones, sul sito. Me lo sono fatto prestare per mandarlo nella puntata dedicata a Bad for Lashes. Diciamo che la mia regola di non ripetere pezzi già andati a Mighty FM con Io Fai la Dorme sta saltando completamente, ma non si poteva fare altrimenti e lo rivendico con orgoglio. Paranoid Park, il brano di apertura di All Harm Ends Here, un album a cui hanno partecipato, come nel caso di Bloodroot, amici e parenti, anche lì Marcello Petruzzi 33 ore, ma anche Mila Fumini al violino per Naked Evil, Andrea Felli al pianoforte sempre per lo stesso pezzo. Come dicevo prima, speriamo che Io Fai la Dorme vengano apprezzati sempre di più all'estero, e come accennavo si esibiranno al Liverpool Sound City Festival dal 2 al 4 maggio 2013 e magari a Weebee, visto che non è molto lontano da lì, magari andrà a vederli. A Weebee, uno dei padri del trip hop britannico, che ha collaborato con Tricky, che suonerà tra l'altro qui al TPO venerdì 26 aprile, e che appunto in totale amicizia ha fatto questo remix di questo pezzo, di cui esiste anche bellissimo video con una discinta e bagnata Francesca Bono, girato appunto dalla filmmaker ufficiale Serena Petrella. E questo remix di AWB ce lo teniamo ancora in sottofondo per continuare con l'excursus delle recensioni di Bloodroot. La composizione delle canzoni si caratterizza per una grande eleganza ed ha il non trascurabile pregio della sintesi. In 30 minuti quasi esatti si crea un'atmosfera coerente, avvolgente e ricca di fascino, dice Movimenta. Ed ancora In The Eye, da qualsiasi angolazione lo si guardi, l'album è un prezioso esempio di equilibrio e sobrietà, pulito, perfetto nei tempi e nei cambi di tensioni, Bloodroot ammalia senza essere caricaturale. E la prima cosa che ci siamo dette, appunto noi mogli, io e Olivia, dopo aver ascoltato questo disco, la prima cosa che ho pensato è: maturo. Un disco maturo, un disco sicuro, un disco che non ha bisogno di tanti orpelli, ma appunto una cura giusta e misurata nei dettagli, nelle finezze, nelle particolarità, che appunto non gli fa scegliere delle soluzioni musicali scontate. Un disco in cui c'è appunto molto equilibrio e armonia tra strumentazioni, voce e melodia, come dice anche la recensione di Calports. Come dicevo prima, uno dei gruppi preferiti da Francesca sono gli Other Lives, e anche da parte di Tato, so che li ama molto, gli Other Lives, che infatti abbiamo visto tutti insieme l'estate scorsa all'Ana B, e mi ricordo proprio che Francesca mi disse: conosci gli Other Lives? Vate a cercare questo pezzo, è bellissimo, si chiama 412 e noi ce l'ascoltiamo, tratto da Tamer Animals del 2011. Oh, I was in the dark age, searching for the ones in my mind. I'm so far away, but I hit it the ground running. Steady as you go, I don't mind. I'm still here today, all spouting hymns and balls and love. And forever talking when it ain't so kind, but it feels like forever when your mind turns to fiction. Thank you. thousand and I'm so far away, but it feels like forever on your own. When your mountains are fixing, all nudging the ghosts from the skull, in a night without sleep, vibration calls. First to the heart and last to the feet, spouting hymns and bows and rhymes. And forever talking when it ain't so kind, but it feels like forever when your mountains are fiction. For 12 Other Lives, Tamer Animals. Nel 2011 è stato uno dei pezzi preferiti, uno dei siti da Francesca e da Io Ferre Dorme, gruppo di cui abbiamo parlato oggi a Mighty FM. Come dicevo prima, grande equilibrio in quest'album, grande sintesi e essenzialità. Invece c'è quasi un paradosso, che è più breve e concentrata a livello musicale, ma testi invece molto più lunghi e molto più articolati che in passato. E comunque anche tutti i pezzi degli Ofelia Dorme, tranne Cheer Me Up, No More Food For Me, scusate, devo dire, sono presenti nella sezione lyrics del sito. E questo è un altro pezzo di Bloodroot, Ulysses. Ulysses, sempre tratto da Blood Root, di cui stiamo parlando oggi, è un tributo obbligato e doveroso, come ho scritto nella presentazione del pezzo, della puntata, non solo per questioni di amicizia o dell'essere una semplice fan sfegatata, ma proprio perché è un bellissimo disco. E questi chi sono? Analyze me, you fight me, and tell me who you are. Find me, analyze me, you fight me, and tell me who you are. And tell me who you are. And tell me who you are. Sono Yodel di Stone, un'altra gloria locale, come Alberto Poloni, voce, seconda voce degli Odere di Stone, ha prestato la sua per Blood Root. Noi facciamo ascoltare Petra e Alberto insieme. Find me, analyze me, you fight me. Me, you fight me, and tell me who you are, and tell me who you are, and tell me who you are. Who are you? Una versione, diciamo, un po' datata di questo pezzo, di cui stanno girando il video in questo periodo Yodel di Stone, ovvero Petra Dotti, Alberto Poloni, Rana Elena ed ora Francesco Di Giovanni e Francesco Papaleo. Questi pezzi che già esistevano in forma di demo quando la line-up, gli arrangiamenti erano un po' diversi, è uscito questo EP dal titolo A Lot of Nothing is Still Nothing. Anche loro ci beccano molto bene con il titolo. E poi una particolarità: Ofelia Dorme, Yodel di Stone e Leather Dive, tutti i gruppi dei nostri amici che si intrecciano in questa puntata, sono tutte un'unica parola con le lettere maiuscole dei sostantivi, insomma una nostra peculiarità. E noi aspettiamo assolutamente le nuove produzioni, le nuove pubblicazioni di Odele di Stone, che noi supportiamo come abbiamo sempre fatto con Ofelia Dorme. Appunto, una puntata che è assolutamente è dovuta per dare riconoscimento a questo disco, e anche perché io e Might FM siamo nei ringraziamenti del disco, quindi non potevamo non farlo. E come dicevo prima, e so di far cosa gradita a Francesca ma anche ad Olivia, uno dei nostri ultimi ascolti, grazie a loro, parlo per me, è Daughter. Questo prima è un'opera solista di Elena Tonra, nome squisitamente irlandese, di Londra Nord, che poi invece adesso si accompagna con altri due ragazzi, questo che è diventato un trio, Daughter, e ci ascoltiamo la bellissima Winter, tratto dal nuovissimo album If You Leave. Strangers. Daughter, Winter, If You Leave, appena uscito. Wait for me to degrade before you go killing, pray for waste of daylight, speaks what slumbers keep. Elena Torra, una di quelle voci che potremmo dire che è lei che assomiglia a Francesca Bono e non viceversa. Uno degli ultimi ascolti, perché funziona così, c'è questo circolo virtuoso in cui noi appassionate della musica ce la passiamo, ti diciamo conosci questo, hai ascoltato questo, ce la passiamo. Io ho visto un video la pagina Facebook di Olivia, l'ho ascoltato, mi è piaciuto, l'ho passato a Ana, ho chiesto l'album, lo sto ascoltando, so che piace a Francesca, e insomma è così che funziona. E siamo arrivati alla fine di questa puntata in cui ho detto un sacco di castronerie, ma avevo già chiesto in anticipo scusa a Ofelia Dorme, e finiamo con Stuttering Morning, dedicato come tutto l'album a Nicolò. Un mattino balbettante come quello del 18 dicembre in cui ci ha lasciato veramente tutti basiti. But this is not the end. Aver paura, questa non è la fine. Il banjo suonato da Marcello Petruzzi, che sarà sul palco insieme a Ofelia Dorme, insieme a tutti noi, venerdì 19 aprile, Bloodroot Release Party, qui al TPO, via Casarini. Bello, ciao a Claudia Mighty Mau.